Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, in questo periodo ci saremo dedicati a una dimensione particolare, quella del gioco o l'attività ludica che sicuramente ha caratterizzato molti dei nostri comportamenti in queste vacanze estive. Non c'è solo la ludopatia che domina il nostro mondo, ma c'è una componente semplicemente ludica della nostra vita che ha sempre maggior successo. E un maestro di giochi verbali in particolare, come Stefano Bartezzaghi, ci fa riflettere su questo tema nel libro La ludoteca di Babele, dal dado e social network, a che gioco stiamo giocando, pubblicato da UTE, 210 pagine, 14 euro. Qui Bartezzaghi ci tiene proprio a distinguere tra gioco e componente ludica, che sta tradendo in qualche modo il significato stesso della parola gioco. Il libro di Bartezzaghi è diviso in due parti. La prima affronta appunto questo aspetto del gioco che diventa ludico ed aggiunge l'autore, parola detestabile ma necessaria, un fluido, un pulviscolo che ormai circola e si infiltra in ogni attività umana. Poi si parla nella seconda parte di alcune idee che ci siamo fatti sul gioco e si conclude con due aspetti particolari, uno dedicato ai videogiochi e in particolare all'uso terribile che i terroristi islamici fanno dei videogiochi e l'ultimo capitolo dedicato ai labirinti. Ma su questi temi sentiamo adesso l'autore. Buonasera Stefano Bartezzaghi. Buonasera. Stefano Bartezzaghi, nelle prime righe di questo libro lei confessa di aver atteso a lungo a scrivere un libro sul gioco. Che cosa l'aveva trattenuto e che cosa l'ha spinta adesso a vincere questa resistenza? Ma mi avevano trattenuti, diciamo, ma altri impegni. Ho avuto questa intuizione che, insomma, quasi sono passati 18 anni, quando è stato inventato il Super Enalotto, mi sono accorto che i giornali erano pieni di notizie su nuovi giochi e che la realtà stessa prendeva un po' la dimensione del gioco, e avevo pensato di fare un diario, poi non ho trovato l'editore sul momento, altri progetti sono andati avanti, ma quando il Festival dell'Antropologia Dialoghi sull'Uomo di Pistoia è stato dedicato al gioco quest'anno e mi hanno chiesto se avevo degli scritti da raccogliere, mi sono ricordato di quell'antico diario e riprendendolo in mano mi sono accorto che era diventato ancora più di attualità, perché quella tendenza che avevo intuito mi è sembrata che si fosse confermata, per cui diciamo che ho fatto una riflessione sicuramente un po' più completa di quanto non potessi fare allora. E nel primo capitolo di questo libro lei insiste sull'affermazione di una dimensione diversa da quella del gioco, che lei chiama dimensione del ludico e che definisce anche una sindrome. Qual è la differenza tra il ludico e il gioco e perché è una sindrome? Beh, già grammaticalmente, no? Il gioco è un sostantivo e ludico è un aggettivo, quindi il gioco, insomma, come siamo abituati dalla tradizione a conoscerlo, è un'attività che normalmente è molto ben delimitata. Ci sono degli spazi, dei tempi che vengono accordati al gioco. Questo succede ancora di affittare un campo da tennis o di incontrarsi con gli amici per una partita a carte, ma il fenomeno che si è affiancato è quello che io ho chiamato del ludico, perché è qualcosa che entra, si interseca anche gli spazi, i tempi che sono dedicati ad altre cose, per esempio al lavoro. Tutto è diventato un po' meno serio di quanto sia stato prima. E anche si è trasformato il gioco, oltre che in una dimensione sociale, in merce, soprattutto i nuovi giochi, lei denuncia. Sì, beh, appunto, senza moralismi, però una volta si giocava con materiali di recupero e soprattutto, no, persino le carte, no, all'osteria c'erano dei mazzi di carte che erano a disposizione fino alla più completa estenuazione delle carte medesime, erano a disposizione dei clienti e venivano sempre riutilizzate. Adesso invece appunto i giochi sono quasi sempre sono prodotti magari anche virtuali che si acquistano e poi il fenomeno complementare è che secondo me anche le merci sono diventate spesso come dei giochi, perché il design contemporaneo è molto attento a degli aspetti che rendono anche gli oggetti funzionali un po' come dei gadget, a partire dai telefonini, no? Gli smartphone spesso hanno disegni, colori che richiamano più l'universo del gioco che non l'universo dell'attrezzeria di una volta. Infatti lei scrive che viviamo in un regime di mitologia del nuovo, questo non vale solo per i giochi però, credo, no? No, sulla mitologia del nuovo devo dire che ho scritto anche cose che riguardano il discorso politico, per esempio, e via dicendo. Viviamo in un mondo in cui tutto ciò che è nuovo, in quanto nuovo, ha una valorizzazione positiva. Qualsiasi cosa che venga detta vecchia non porta più con sé quei connotati magari di tradizione, di collaudo, di lungo collaudo e quindi di garanzia di funzionamento, no? L'usato sicuro di una volta, questa connotazione si è abbastanza persa e lo vediamo con gli oggetti che dobbiamo continuamente rinnovare. E si usa anche questo modo di dire la generazione, no? Un telefonino, uno smartphone, un computer di ultima generazione, con una metafora presa poi invece dalla vita biologica. Lei ha fatto un cenno alla politica lì, però la dimensione del gioco non è fortissima. Però a pensarci bene, anche insomma, io ho lavorato e continuo a lavorare un po' sul linguaggio della politica. Se pensiamo all'austerità dei discorsi politici fino a una ventina d'anni fa, ora vediamo che invece molto del gergo è entrato ci sono delle dichiarazioni politiche che vengono espresse con parole come ciaone. E questo fa parte di una visione comunque ludica del linguaggio. Il linguaggio politico, anche proprio quello dei leader, deve essere accattivante e può essere magari anche nel sarcasmo nei confronti dell'avversario e si rivolge molto più di quanto non facesse un tempo alle risorse del linguaggio anche gergale, perciò stesso un po' ludico. Che non è necessariamente una garanzia di qualità della politica, ma questo è oggetto del suo prossimo libro. A un certo punto lei dice che il gioco si intreccia col tema sociologico del tempo libero. Questa è una dimensione tradizionale del gioco, ma che cosa c'è di nuovo? Che c'è più tempo libero, forse? Sì, c'è ci sono state insomma ricerche sull'invenzione del tempo libero alla fine dell'Ottocento ed è un tema ormai classico della riflessione soprattutto sociologica. Oggi mi pare di poter dire che appunto anche il tempo libero, così come il tempo di lavoro, in molti lavori si estende fino a occupare zone che una volta erano di libertà assoluta, no? Appunto lo smartphone per chi fa un certo tipo di lavoro, per esempio i lavori che faccio io, è una benedizione e una maledizione, perché appunto ci rende reperibili in ogni momento, no? Nello stesso tempo appunto riusciamo a scavarci della libertà anche all'interno del tempo di lavoro. Una delle cose che io avevo scoperto 18 anni fa, per esempio, una cosa un po' malandrina, è l'esistenza, ma penso che esista ancora in molti videogiochi, di un dispositivo chiamato Panic Button, il bottone del panico, che significa che quando uno è in ufficio e sta facendo un videogioco col computer dell'ufficio, vede arrivare il capo, schiacciando questo bottone istantaneamente il gioco viene messo in pausa e scompare dallo schermo e appare un documento di lavoro che era stato preordinato, ecco. E mi pare che questo sia il simbolo di questa entrata e uscita fulminea dal gioco e la sua possibilità appunto di entrare a distoglierci anche dalle nostre altre attività. E probabilmente molti sognerebbero di schiacciare il capo, non il gioco. Ma in assenza di questa possibilità bisogna uscire dal gioco se non si vuole uscire dal lavoro per le vie più brevi. Parliamo di due personaggi, uno forse meno noto ma è stato un grandissimo intellettuale del Novecento, Huizinga, che ha scritto un libro proprio sull'uomo che gioca, l'uomo Ludens, e lei scrive a questo proposito che il problema del gioco è stato centrale nello statuto di quella che di lì a poco si sarebbero chiamate scienze umane proprio grazie agli studi di Huizinga. Che cosa è entrato di Huizinga appunto nello studio delle scienze umane? Beh, questo grande innovatore della storia, precursore per certi versi della sociologia, scriveva in tempi terribili nel veniero olandese, nel 29 e poi negli anni 30, e il suo libro uscì insomma nel periodo dell'occupazione nazista e fu letto inizialmente da pochi, ma subito dopo la fine della guerra, soprattutto in Francia, innescò un dibattito tra studiosi come Roger Caillois, Maurice Blanchot, persino il grande linguista Émile Benveniste, che sono quelli che poi, alcuni di quelli che hanno fondato il Collège des Sociologie, e poi da lì poi è anche nato gran parte dello strutturalismo che ha dominato per alcuni decenni il dibattito. E il gioco, che era sempre, aveva avuto fin da Platone attenzione, ma lì uscì dalla visione anche romantica che portava all'infanzia e si capì che è una cosa legata innanzitutto alla dimensione del sacro, e che era alla base di tutti, questo era il tema di Huizinga e dell'Homo Ludens, il gioco era alla base di tutte le interazioni sociali, non era affatto diciamo una cosa collaterale e perciò abbastanza trascurabile. E da lì appunto nacquero delle riflessioni e dei dibattiti che poi sono diventati importantissimi, e se vediamo poi da Wittgenstein ancora prima Saussure, il gioco è stato un tema di riflessione per tantissimi, è venuto fuori in momenti anche molto significativi dello sviluppo del pensiero contemporaneo, per esempio nello strutturalismo con Lévi-Strauss e poi nel post-strutturalismo con Derrida e Deleuze. L'altro personaggio invece è molto noto a tutti ed è Umberto Eco. Lei scrive: il gioco con Eco entra nel corpo della sua teoria, fornendo esempi anche metodi di ricerca. Qual è il rapporto di Eco col gioco? Eco è stato un personaggio, tra l'altro appunto la sua scomparsa è avvenuta mentre stavo scrivendo questo libro, in cui avevo già scritto delle cose, poi altre ne ho aggiunte, perché per lui il gioco, oltre a essere appunto un tema suo, la storica introduzione all'Homo Ludens di Huizinga, in cui porta in italiano quella differenza fondamentale che c'è nella lingua inglese tra il game e il play, che sono due accezioni diverse di gioco, una che punta più sulle regole e l'altra che punta più sull'attività e anche quindi sulla libertà, in questa continua oscillazione fra le due dimensioni. Ma oltre all'aspetto appunto di gioco come oggetto di teoria da parte di Eco, c'è il fatto che per lui era un metodo, era qualcosa che appunto comunque connaturato alla cultura. Io ho avuto la fortuna di essere suo studente e so che usava proprio anche dei giochi in funzione didattica, dei piccoli esperimenti diciamo in cui coinvolgeva la classe. E un esempio che si può fare, credo noto a chiunque, comunque chiunque abbia letto Il nome della rosa o almeno visto il film, il fatto che la biblioteca del nome della rosa sia un labirinto, che tema mitico ma anche un gioco, e che questo labirinto si risolve tramite un gioco di parole che è l'acrostico, che appunto dà ai bibliotecari il sistema di memoria per sapere come orizzontarsi dentro al labirinto, sicuramente diventa significativo, perché la biblioteca era per lui la proiezione spaziale dell'enciclopedia, e l'enciclopedia era per lui, nella sua semiotica, l'immagine diciamo del sapere condiviso di una società. Grazie a Stefano Bartezzaghi, autore della Ludoteca di Babele. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. Un altro esperto di enigmistica, a parte Stefano Bartezzaghi naturalmente, è il protagonista del libro di Jeff Barch, che è un copywriter al suo primo romanzo, che si intitola Due verticale, tradotto da Alessandro Storti per Nord, 322 pagine, 16 ore 60. Questa è una strana storia d'amore e un ancor più strano matrimonio che condurranno il protagonista Stale a inseguire o a riconquistare la sua vera attraverso il linguaggio, l'unico linguaggio in cui è veramente maestro, e cioè appunto l'enigmistica. Invece il gioco può risultare una componente importante per affrontare dimensioni del tutto inaspettate. Ce lo conferma il libro di Giampaolo Montali, che è stato un grande allenatore di pallavolo e che si occupa ora di gestione delle risorse umane. Il libro si intitola Il parafulmine, lo scopone scientifico, come diventare un vero leader nel lavoro e nella vita, è pubblicato da Rizzoli, 206 pagine, 17 euro. Come Platone, l'autore si dice convinto che si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Ma perché il riferimento allo scopone scientifico? Perché, ci spiega, in generale la lettura delle carte è il momento più importante per definire la strategia del gioco. Come in una qualsiasi altra attività lavorativa, in quel momento ti trovi ad avere a che fare con il tempo. In poche decine di secondi devi decidere la tattica da seguire in base a ciò che hai in mano e a quello che c'è sul tavolo. E quindi la morale che l'autore trae dal gioco è che per diventare un leader, a mio avviso, il talento naturale non è una condizione sufficiente, magari è necessaria, ma soltanto in piccola parte. Uno può nascere leader, ma può anche diventarlo. E appunto il riferimento allo scopone scientifico spiega nel resto del libro come diventare leader. E un libro tutto di calamburo, sia di divertenti giochi di parole, è quello di Davec, che è Jean-Charles Davec-Sommeil, concepito su un camion Gondrand in panne, come l'autore stesso ci spiega, che fu autore di una fortunata rubrica di giochi di parole sull'unità e che con Vita Felice pubblica La Medusa si scombisciava dalle risa con i disegni di Alberto Rebori. 170 pagine, 15 euro. E vi leggo da questo libro di gioco di parole qualche gioco di parole particolarmente adatto alla stagione che stiamo attraversando e che per Davec è la stagione estiva, perché, sentite, si può capire l'odio dei rematori in ceppi per la stagione estiva. Oppure, che le spiagge d'estate pullulino di radio a tutto volume è un'affermazione stereostipata. O ancora, non mi parlate di barca a vela, appena partiti prendo un colpo micidiale in faccia e lui, te lo avevo detto di non fare la smemoranda. Temeva che i neozelandesi si avvicinassero nottetempo per capire i segreti della chiglia. Al minimo rumore saltava su: Kiwi là, Kiwi là! E infine la sua passione era il bagno coi cavalloni, ma quell'anno niente, una piatta, era a mareggiata. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo aver parlato di giochi, parliamo di mete di viaggio. E cominciamo con l'Italia, con una guida insolita, quella scritta da Raul Melotto, che è un esperto di arte e letteratura e che ha scritto Caravaggio, l'artista in Italia, pubblicato da Odoia, 280 pagine, 20 euro. Caravaggio è certamente uno degli artisti più amati e in questo libro l'autore ce ne presenta la vita e le tappe, assieme a tante illustrazioni che ricordano l'opera del Caravaggio. E così ci dà la possibilità di scoprire meglio questo grande artista, o di riscoprirlo nei tanti luoghi italiani che ne racchiudono dei capolavori. Troverete qui non soltanto la presentazione delle opere e dei luoghi, ma anche le indicazioni logistiche per raggiungere questi luoghi e conoscere sempre meglio un pittore che è diventato quasi un feticcio, come dimostra la ripresa che di molte sue opere fanno ancora oggi i writers. Un altro viaggio particolare in Italia è quello a cui ci invita Stendhal, che fa scoprire l'Italia del 1818. Questo è il titolo del libro pubblicato da Aragno, 194 pagine, 12 euro, tradotto e curato da Vito Sorbello. Stendhal voleva pubblicare con questo titolo una nuova versione di un suo precedente libro, Roma, Napoli e Firenze nel 1817. Poi abbandonò questo progetto e le carte rimasero nascoste, dimenticate, finché furono riesumate e pubblicate per la prima volta nel 1932. Adesso abbiamo una versione definitiva di quelle carte nelle quali Stendhal raccoglie molte osservazioni, soprattutto sulla storia della società italiana e anche sui tratti del carattere nazionale, che è dominato, secondo lo scrittore, il grande scrittore francese appassionato dell'Italia di Milano in particolare, da un'energia che spiega anche le sue diverse politiche, come spiegano adesso queste righe che vi propongo. In Italia, tutti i caratteri ardenti, tutti gli spiriti attivi erano inevitabilmente portati a contendersi il potere. Questo godimento delizioso e forse al di sopra di tutti gli altri per degli individui circospetti, o quantomeno il più duraturo. Milano, Siena, Pisa, Firenze e altre 20 città erano divorate dalle fiamme delle fazioni. I loro cittadini sacrificavano con gioia alla propria ambizione politica la tutela dei loro interessi privati e la difesa di ciò che noi chiamiamo i diritti civili. Ne derivava quell'eterno conflitto delle famiglie potenti, la cui storia domestica è così singolare, quella lotta violenta delle fazioni, quel lungo sortilegio di vendette, proscrizioni, catastrofi. Ecco il focolaio che produsse le interminabili e implacabili guerre da città a città, e infine le invasioni di popoli stranieri che, armati da un re, ebbero la meglio sulle piccole città che si detestavano tra di loro. Perché non bisogna nasconderlo. Al tempo stesso dell'energia, il Medioevo ha lasciato in Italia la funesta abitudine all'odio. È lì, in questo clima incantevole, che questa funesta passione esplode in tutta la sua forza. Le tirannie sospettose, deboli e atroci, che governarono l'Italia dal 1530 al 1796, hanno mutato la prudenza del Medioevo in cupa diffidenza. Da qui, la prima qualità del cuore italiano, parlo di quello che non è ridotto all'insipidezza dal cristianesimo o dalla tirannia, è l'energia. La seconda, la diffidenza. La terza, la voluttà. La quarta, l'odio. Un altro mito della pittura, anch'egli celeberrimo, troviamo nel libro di un popolarissimo giallista francese, Michel Bressy, che si intitola Ninfee Nere, pubblicato da Edizioni Otro, 198 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Alberto Bracci, Testa Secca. Le ninfee vi avranno messo sull'avviso, sono quelle di Monet, che le dipinse a Giverny, oggi una delle più battute mete turistiche della Francia. E qui si compie proprio a Giverny una serie di delitti che mette a nudo i vizi della piccola comunità, ma soprattutto hanno a che fare con un capolavoro perduto del grande artista, ossia appunto le ninfee nere. E sentiamo come un esperto ci presenta quelle opere di Monet che sono divenute così popolari. Le ninfee, continua Achille Guillotin senza riprendere fiato, sono una collezione molto strana, senza equivalenti al mondo. Negli ultimi 27 anni di vita, Claude Monet non ha dipinto altro che il suo stagno di ninfee. Gradualmente eliminerà tutta la scenografia intorno, il ponte giapponese, i rami di salice, il cielo, per concentrarsi unicamente sulle foglie, l'acqua e la luce. La costruzione grafica assoluta. Le ultime tele, qualche mese prima che morisse, rasentano l'astrazione. Solo chiazze di colore, effetto a macchie, lo chiamano gli esperti. Nessuno aveva mai visto cose del genere e nessuno capirà al tempo di Monet. Tutti lo prenderanno per un ghiribizzo da vecchio. Quando muore, le ninfee di Monet vecchio, soprattutto gli ultimi quadri, finiscono nel dimenticatoio. Vengono giudicate puro delirio. Restiamo in Francia con un delizioso classico dell'umorismo, il ciclo di Cloche-Merle, di cui autore Gabriel Chevalier, morto nel 1969, e autore francese di straordinario successo. Il ciclo si apre con l'annata memorabile del Beaujolais, che ha avuto un successo planetario e anche un'altrettanto fortunata trasposizione cinematografica con Fernandel. Adesso torna con la traduzione di Sestilio Montanelli per Edizioni EOP, 366 pagine, 18 euro. Siamo nell'ottobre del 1923 e tutto comincia con l'ardita decisione del coraggioso sindaco del borgo, molto fiero del proprio progressismo, che vuole dimostrare questa sua venatura di sinistra costruendo un Vespasiano nuovo per sancire appunto il carattere innovativo della propria amministrazione. Scartata l'idea di una biblioteca, la scelta cade appunto sull'orinatoio, col quale il sindaco conta di scardinare l'opposizione della buona borghesia conservatrice, se non addirittura razionale. E da questa decisione nascerà la serie di avventure che non mostrano la loro età. Ancora in Francia si svolge Tre giorni e una vita di Pierre Lemaitre, che è uno scrittore e sceneggiatore molto particolarmente noto in Francia, pubblicato da Mondadori, 226 pagine, 18 euro, tradotto da Stefania Ricciardi. Di nuovo troviamo una piccola comunità segnata da una serie di fatti drammatici che culminano nella scomparsa di un bambino che è stato ucciso da un ragazzo che porterà il rimorso di quell'omicidio, per quanto involontario, in modo angoscioso per molti anni. Passerà molto tempo e una tempesta farà piazza pulita della scena del delitto, rimettendo il protagonista Antoine davanti a se stesso e al rapporto con la madre e con altri conoscenti. Una meta francese molto nota a tutti, ma ormai poco battuta dai turisti, è sicuramente Calais, che è diventato uno degli epicentri delle convulsioni che stanno cambiando l'Europa. E incontriamo Calais in un reportage che è stato scritto per una rivista da uno dei più popolari scrittori francesi, Emmanuel Carrère, l'autore tra l'altro di Limonov. E questo reportage è pubblicato adesso da Adelphi, si intitola Calais, 50 pagine 7 euro, ed è tradotto da Lorenzo Di Lella e Maria Laura Vanorio. Calais è la città nel nord della Francia dalla quale si partiva una volta in traghetto per l'Inghilterra e un tempo era appunto meta di turisti con un livello, uno standing europeo. Oggi invece Calais è in piena decadenza perché è diventato un centro di immigrazione quasi fuori controllo. Carrère va lì, vuole capire, non sempre accolto con cordialità dagli indigeni che lamentano che la loro città, una volta appunto fiorente centro turistico e capitale del merletto, si è diventata, come lo definiscono loro, uno zoo. Calais ha 70.000 abitanti e, scrive Carrère, ha alle sue porte una popolazione di 7.000 disgraziati ridotti allo stremo, che dormono in tende di fortuna, nel fango, al freddo e che ispirano, a seconda del carattere di ciascuno, apprensione, pietà o sensi di colpa. Brexit metterà a dura prova il destino loro e di Calais, aggiungo adesso io, perché nessuno dalla Gran Bretagna vuole venire in Francia, mentre gli immigrati vogliono tutti andare dalla Francia verso l'Inghilterra, o volevano andare dalla Francia all'Inghilterra. E dunque la città vive in stato d'assedio, uno stato d'assedio di cui Carrère, da grande scrittore, coglie le sfumature, le conseguenze e l'impatto. E un'interlocutrice in particolare gli spiega che cosa sia veramente difficile. Sa Carrère qual è la cosa più difficile qui? Gli domanda retoricamente. L'inerzia delle cose: se non si vuole correre il rischio di schiantarsi al suolo è meglio volare basso, perché in questa città niente va per il verso giusto, tutto si è fossilizzato, i calcic chiusi nella loro bolla di vetro, i fessi nei loro casermoni di periferia, i politici nel loro grottesco habitus politichese, i professionisti del filo spinato tutto intorno alla circonvallazione nella zona dell'Eurotunnel. È avvilente, caro Carrère. La sera, quando le raffiche di vento raggiungono i 94 km all'ora, noi torniamo a casa al caldo, mentre, e qui puntini di sospensione. Insomma, una testimonianza preziosa per capire l'Europa di oggi in uno dei suoi punti più emblematici. Il viaggio e la vacanza sono anche l'occasione per incontrare persone nuove, relazionarsi, giudicarle, amarle magari o detestarle. E allora vi segnalo due libri che ci aiutano a prendere le misure con l'interlocutore medio, con la gente normale. Il primo è quello di una giornalista di Repubblica che si intitola Mammiferi italiani, l'autrice Raffaella De Santis, storie di vizi, virtù e luoghi comuni, pubblicato per La Terza, 158 pagine, 14 euro. L'autrice parte dal cappuccino, che la considera come la sintesi dei difetti nazionali, nella quale troviamo, scrive, mitezza solo apparente, perché dietro quell'area bonaria che si nasconde la nostra bellicosa ritrosia, stare nei ranghi a combattere chi ci ostacola, fottere sempre comunque il prossimo. Addirittura il cappuccio è un po' diventato, suo malgrado, il simbolo della nostra ignavia nazionale, addirittura. Poi si parla di un ampio repertorio nazionale, dalle mammine ai ballisti, forse con una punta di compiacimento nel descrivere sotto una luce che spesso rasenta davvero il luogo comune. E addirittura Mi sono perso in un luogo comune, dizionario della nostra stupidità, è il titolo del libro di Giuseppe Culicchia, pubblicato da Einaudi, 232 pagine, 14,50 euro. Questo invece è un dizionario alla Flaubert, ma il modello onestamente resta molto lontano, nel quale scorrono ticche, luoghi comuni. Per esempio, se vi siete dedicati o state per farlo ai viaggi, leggete questa voce che recita: viaggi, l'unico vero scopo della vita, farne il più possibile anche a costo di accendere uno più mutui, dire sempre adoro viaggiare. Oppure, se vi state dedicando alla lettura, non perdete la voce leggere. Leggere. Perdita di tempo, ovviamente quando si tratta di libri e quotidiani, ma anche nel caso di istruzioni per l'uso di strumenti tecnologici o elettrodomestici, eppure per i bugiardini dei farmaci. Se su Facebook o su Twitter ci si imbatte in un link che rimanda al brano sulla neolingua tratto da 1984 di Orwell, in cui si narra della distruzione delle parole, con conseguente eliminazione di qualsiasi forma di pensiero complesso, soffermarsi per un istante a riflettere e collegare tale profezia alla riduzione del vocabolario e del pensiero grazie ai 140 caratteri di Twitter e ai mi piace di Facebook. Quindi ritwittare immediatamente o cliccare mi piace. E a questo punto... Il confettino. Di ambiente marinaro, il libro Dov'è la stella marina di Barrou, pubblicato da Edizioni Clichy, 15 euro, che invita anche i lettori più piccoli a non considerare il mare come una grande discarica. E vi segnalo anche di Hubert Reeves, che è un ecologista e astrofisico canadese, e Yves Lancelot, che è un oceanografo francese, Il mare spiegato ai miei nipoti, tradotto da Stefano Travagli per Baldini e Castoldi, 120 pagine, 12 euro, nel quale l'astrofisico racconta il posto che occupa nell'universo il mare e spiega ciò che ci insegna sul sistema solare, mentre l'oceanografo osserva il mare dalla Terra e si tuffa nelle sue profondità estreme. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Pietro Lacorti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.